Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccoci, vi stavamo aspettando, siamo pronti con Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli del nostro sommario di oggi. Fegato, ti diciamo tutto di lui. Vitamina E, una famiglia amica del nostro cervello. Pilates, un tocca sana per i piedi. Apriamo questa settimana occupandoci del nostro fegato, che è un organo unico per importanza e per numero. Ciò significa che dobbiamo cercare di conservarlo il più possibile sano e funzionante. Ma c'è un problema. Il fegato è esposto a una gran varietà di attacchi, quindi è uno degli organi del corpo più frequentemente danneggiati. Allora oggi parliamo di tutte le situazioni che possono compromettere la sua salute: alimentazione, alcol, comportamenti a rischio, ma anche delle situazioni di sofferenze, di malattia, di steatosi epatica, il cosiddetto fegato grasso, di cisti, di quelli che impropriamente vengono chiamate calcole, e naturalmente anche di infezioni, quindi di epatiti. Scopriremo insieme oggi gli esami che controllano la salute del nostro fegato e parleremo anche delle nuove terapie oggi a disposizione. Una puntata quindi a 360 gradi in cui ci accompagna il professor Massimo Colombo. Buongiorno professore. Buongiorno dottoressa. Direttore della cattedra di gastroenterologia dell'Università di Milano e della divisione di gastroenterologia del Policlinico. Professor Colombo, a volerlo paragonare ad una persona, cosa potremmo dire di questo fegato? Beh, è sicuramente molto laborioso, è un laboratorio che riesce a svolgere delle funzioni in tempi miracolosamente molto brevi, poiché è ricco di proteine che si chiamano enzimi, capaci di accelerare ogni tipo di attività. Noi questi enzimi li misuriamo nel sangue quando lasciano il fegato, perché ci danno una visione globale del suo stato di salute. Professore, la caratteristica del fegato, che sappiamo insomma proprio sua, peculiare, è che continua a svolgere le sue importanti funzioni anche quando alcune delle sue cellule sono attaccate da agenti infettivi o da malattie. Insomma, tornando al nostro esempio, fino a quando la situazione lo permette, il fegato tira avanti, no? Lavoratore instancabile senza lamentarsi. Ma quando si lamenta, la situazione potrebbe essere seria, professore, così? Sì, è così, e ha una sua ragione anatomo-funzionale. Il fegato è costituito da un pool, da un insieme, da una massa critica di cellule che sono quelle che ci fanno vivere e ci sostengono tutti i giorni. Poi ha un'enorme quantità di cellule che sono di scorta, di riserva, che spesso riposano mentre le altre funzionano. E questo ha un vantaggio e uno svantaggio. Quando siamo colpiti da una malattia acuta severa, questa grande massa di riserva ci fa vivere il fegato e lo fa rigenerare. Però ha anche così un pericolo insito. Quando siamo invece colpiti da una lesione subdola cronica che per molti anni corrode il fegato, occorre che venga tutta demolita la parte di riserva prima che, intaccata la noce, la parte centrale del fegato, compaiano quei sintomi che allertano e che spingono i pazienti ad andare dal medico e farsi curare. Professore, questo vuol dire che ci sono persone che in teoria potrebbero essere malate ma che non hanno sintomi, e persone che hanno esami alterati ma che malate non sono. Sembra un po', no, un rebus, professore. Sì, è un paradigma curioso, però è perfetto. Nella popolazione italiana ci sono circa 1,5 milioni di individui che hanno infezione cronica con i due virus prevalenti, i virus dell'epatite B e C. Fortunatamente solo una minoranza di loro, noi stimiamo un 20-30%, ha in atto una malattia importante che richiede un intervento medico. Quindi è un classico esempio di tante persone colpite da un'infezione cronica e fortunatamente un numero limitato di persone che hanno ammalato il fegato al punto da richiedere l'intervento del medico. Professore, ci sono alcuni sintomi che spesso ci fanno dubitare dello stato di buona salute del nostro fegato, ad esempio la difficoltà a digerire, il dolore o meglio una certa dolenzia, ma a metterci in affanno potrebbe essere anche i valori di alcuni esami, transaminasi, bilirubina, anche qualche comportamento a rischio, ancora la presenza di calcoli e cisti individuati magari durante un'ecografia. Questo è vero, i sintomi praticamente non dimostrano o non suggeriscono la presenza della malattia di fegato. Noi confondiamo molto spesso la dispepsia, cioè un cattivo stato della nostra attività digestiva, o dolenzie che provengono dal colon o dallo stomaco, con un problema di fegato. In realtà la malattia epatica, tranne rare eccezioni di malattie acute severe o le forme croniche avanzate, che insomma sono considerate quasi terminali, dicevo, le malattie epatiche nella stragrande maggioranza dei casi non sono accompagnate da sintomi che possono allertare, e questo naturalmente è un pericolo per lo stato di salute del paziente. Ci sono invece alcuni esami che valutano la salute del nostro fegato, ne parleremo, transaminasi, bilirubina, chiamateci all'824 0024 se il vostro medico vi ha prescritto degli esami, i valori non sono nella norma. Il professor Colombo rimane con noi fino a mezzogiorno, per cui cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. Raccontateci la vostra storia, raccontateci i vostri dubbi, proprio grazie ai vostri interventi riusciremo a dare le informazioni più importanti per mantenerlo sano, per affrontare e seguire una corretta prevenzione. Ma la puntata di oggi, grazie all'intervento del professor Colombo, sarà anche un modo per dare informazioni sulle nuove opzioni terapeutiche e su che cosa sta lavorando la ricerca. 824 0024, il nostro numero verde oggi è rivolto alle persone che hanno a cuore la salute del loro fegato. I messaggi al 349 238 6666. Il microscopio. La vitamina E conquista i ricercatori, in particolare quelli del Karolinska Institute di Stoccolma e dell'Istituto di Gerontologia e Geriatria dell'Università di Perugia. I due centri infatti hanno portato avanti uno studio che dimostra come livelli elevati nel sangue di differenti forme di vitamina E si associano ad un ridotto rischio di Alzheimer. Ne parliamo con la professoressa Patrizia Mecocci, che è direttore dell'Istituto di Gerontologia e Geriatria dell'Università di Perugia e direttore della struttura complessa di geriatria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Professoressa, io ho parlato di vitamina E, ma in realtà non ne esiste una sola, bensì 8. E voi ritenete che tutti i componenti della famiglia, se così vogliamo chiamarla, possono avere un ruolo protettivo contro la malattia di Alzheimer. Questa, se non sbaglio, è già un'ottica nuova rispetto agli studi precedenti, vero professoressa? Esattamente, perché oggi vitamina E è spesso sinonimo di alfa-tocoferolo, che è la forma di vitamina E più abbondante sia nella nostra dieta che nel nostro organismo. In realtà però sappiamo oggi che la vitamina E è una famiglia di 8 diverse molecole e la nostra ipotesi è che tutte insieme, combinate, possano avere un ruolo protettivo contro l'Alzheimer. Il nostro è il primo studio che ha misurato nel sangue tutte queste 8 diverse forme di vitamina E in una popolazione di soggetti anziani. In particolare abbiamo valutato dei soggetti ultraottantenni che vivono in Svezia, tutti con normali funzioni cognitive, quindi senza problemi di memoria, che sono stati poi seguiti per 6 anni. Quello che abbiamo trovato è che i soggetti che all'inizio dello studio avevano i più alti livelli di questa famiglia di vitamine E nel sangue avevano un rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer ridotto di circa il 50% rispetto ai soggetti che invece avevano i livelli più bassi. E questo studio proprio in soggetti molto anziani. Professoressa, quindi la ricerca, come si dice, va avanti per capire quale combinazione di queste 8 forme di vitamina E sia capace di svolgere un'azione neuroprotettiva. Ma nell'attesa, intanto che voi lavorate, professoressa, noi come facciamo ad assicurarci il giusto livello di vitamina E? Proprio perché, come dicevamo, è importante tutta la famiglia di vitamina E, è importante anche che non ci si focalizzi, non si usi solo la supplementazione con l'alfa-tocoferolo, il cui eccessivo consumo è stato addirittura associato a un'aumentata mortalità, anche se su questo punto le opinioni sono diverse e contrastanti e c'è bisogno di una ricerca più approfondita. Ed infatti è proprio per questo motivo che il nostro istituto sta portando avanti la ricerca sul ruolo protettivo delle diverse forme di vitamina E. Nell'attesa di definire la giusta composizione di supplementi che siano sicuri ed efficaci, nel frattempo possiamo consigliare l'adesione a una dieta bilanciata, qual è la dieta mediterranea, che rappresenta nel suo insieme una buona fonte di tutti i tipi di vitamine E, in quanto vitamina E come alfa-tocoferolo è presente nell'olio d'oliva, ma le altre forme le possiamo trovare nei cereali, in molte verdure come per esempio spinaci e pomodori, nei semi oleosi come le noci e le nocciole e in alcuni frutti esotici come l'avocado. È chiaro che come sempre bisogna bilanciare la dieta, quindi noi possiamo trovare queste vitamine in questi alimenti che non vanno consumati comunque in eccesso, ma sempre in maniera equilibrata. Grazie professoressa per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e buona ricerca. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Pronto soccorso. E noi torniamo al protagonista della puntata di oggi, parliamo del nostro fegato insieme al professor Massimo Colombo. Professore, stanno già arrivando numerosi messaggi al 349-238-6666. Il primo, Dino, ci scrive: il fegato un po' ingrossato è un sintomo trascurabile? Professore, andiamo dal medico e il medico visitandoci ci palpa e dice: il suo fegato è un po' grosso, basta un esame clinico, quindi la visita, oppure bisogna fare esami più approfonditi? Beh, innanzitutto mi lasci congratulare col collega che finalmente visita il paziente e incomincia a identificare forse un problema clinico, partendo dall'approccio che è razionalmente e metodologicamente più corretto, la raccolta della storia e la visita. Sì, abbiamo esami non invasivi. A parte una raccolta di storia medica che aiuta tantissimo in questo caso, poi è fondamentale approfondire con dei semplici esami di sangue e un esame non invasivo che è l'ecografia dell'addome, e si arriva insomma a definire se quell'aumento di volume del fegato nasconde un'infiammazione o semplicemente un grande accumulo di grasso o, come talvolta capita, è costituzionale. In alcune persone l'organo è un po' di volume superiore che in altri. Filippo ci chiama da Milano all'800-24-0024. Benvenuto Filippo e buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamavo per avere una curiosità. Allora, io sono in cura da diverso tempo da un epatologo che ai tempi mi aveva fatto fare un'ecografia, mi aveva infatti trovato una steatosi del fegato e quindi insomma mi aveva fatto fare una dieta, mi aveva detto di mangiare bene eccetera eccetera, ok, togliamo l'alcol e così via. E gli unici valori dopo gli esami del sangue che io ho sballati sono entrambi quelli delle transaminasi, sì, le GBT e le GOT, se non ricordo male. Volevo sapere come mai sono gli unici valori e se insomma cosa posso fare per rimediare a questa cosa, insomma. Grazie Filippo. Professor Colombo, la telefonata di Filippo ci permette di aprire un capitolo sugli esami e sui valori che noi riteniamo importanti per valutare la salute del nostro fegato. Che cosa sono le transaminasi e perché un'alterazione del loro valore può provocare un po' di allarme, se deve provocarlo soprattutto? Sono delle piccole proteine contenute nelle cellule, in questo caso del fegato, che hanno funzione enzimatica, cioè grazie a loro il fegato può accelerare di miliardi di volte la velocità con cui realizza tutte le trasformazioni biochimiche che gli sono proprie. Normalmente ogni giorno muoiono centinaia di migliaia di cellule epatiche per naturale invecchiamento e noi in circa 3 mesi ricambiamo tutti i 10 miliardi di cellule che costituiscono il nostro fegato. Quindi ogni giorno nel sangue vengono rilasciati i componenti costituenti della cellula epatica, compreso le transaminasi. Misurando il loro livello nel sangue, noi abbiamo un'idea approssimativa, però diciamo molto informativa, sullo stato di salute del fegato. Quando il fegato, come nel caso di questo signore, è grasso, cioè accumula trigliceridi neutri, le cellule si espandono, le maglie delle loro membrane si aprono, sì, fuoriescono da questi pori le proteine enzimatiche, non di rado c'è una trasformazione aumentata di cellule che muoiono, insomma accelera un pochino il processo e nel sangue compare un incremento di transaminasi. Di solito con delle diete che riescono a far ridurre peso e che quindi influiscono sull'accumulo di grassi nel fegato, queste transaminasi rientrano anche ai valori di norma. Quali altri valori, professor Colombo, potrebbero generare equivoci? Mi viene in mente la bilirubina, ad esempio, che è una domanda molto gettonata al 349-238-6666. Certo, la bilirubina esprime il metabolismo finale del globulo rosso ed è un prodotto tipico di manipolazione del fegato. Ci sono condizioni cliniche del tutto inoffensive, come la sindrome di Gilbert, per cui gli individui nascono e vivono una vita stupenda avendo un difettino nel metabolismo della bilirubina che si traduce in un incremento di valore nel sangue. Queste persone vengono erroneamente considerate malati di fegato. Poi però la bilirubina gioca un ruolo importante nella diagnosi delle malattie di fegato. Pensiamo alla cirrosi, che è una malattia a cui si può giungere per strade diverse, alcol, sovrappeso, epatite virale, eccetera, che nelle sue fasi più avanzate, quando noi cominciamo a mettere mano dei progetti di trapianto, si incrementa nel sangue ed è da noi considerato un parametro sensibile e specifico di malattia epatica che deteriora. Quindi è vero, è un esame molto importante. Infatti una mamma mi scrive: mio figlio ha la bilirubina 230, ha 34 anni, cosa può essere? Qual è il valore soglia, professor Colombo, della bilirubina? No, qui forse la signora si è un po' emozionata e confusa, perché il valore normale è 1 milligrammo per 100, cioè sotto un milligrammo siamo nella sfera di norma, sopra un milligrammo non di rado incontriamo quelle molte centinaia di migliaia di italiani che hanno questa sindrome di Gilbert, per cui in momenti di carenze metaboliche o di stress psicofisico o semplicemente di attività sportiva, la bilirubina aumenta un po' nel sangue, di solito è la quota cosiddetta indiretta, ed è privo di qualunque significato clinico, quindi di solito voglio dire, io penso che il caso della signora si riferisca a questa sindrome di Gilbert. Ada ci chiama da Treviso, 824-0024. Ada, buongiorno. Buongiorno. Dovrebbe spegnere la radio, mi suggerisce Carmelo. Sì. Adesso ci siamo, eccomi. Dico il mio problema? Sì, se vuole. Sì, io a 18 anni ho avuto un'epatite, sì, e a 20 un'altra volta ho avuto la A e la B. Sì. Non sono positiva alla C. Sì. Io però cioè a periodi ho la transaminasi molto alta, tutte e due le transaminasi alte. E niente, volevo sapere, siccome ha detto che ci sono adesso delle farmaci nuovi, delle nuove metodi di cura, sì, se è possibile fare qualcosa. Grazie Ada. Professor Colombo, una domanda che richiede una risposta molto ampia, ma che ci offre alcuni spunti, no, per aggiornare i nostri ascoltatori. Sì, professore. Con piacere. Allora, l'epatite A la possiamo considerare certamente guarita, perché guarisce sempre, quindi quello è un capitolo chiuso. L'epatite B occorre verificare con esami opportuni se è ancora presente l'infezione ed è responsabile di questi incrementi delle transaminasi. Non dimentichiamoci che alcune persone possono ben guarire dalla epatite B e poi avere degli incrementi di transaminasi per motivi completamente diversi, per esempio il sovrappeso corporeo o altre malattie epatiche. Ma nell'ipotesi in cui questa signora avesse un'epatite cronica virale B, è davvero indispensabile un approfondimento presso un centro specialistico, perché oggi noi disponiamo di trattamenti a base di farmaci che vengono assunti per via orale o di un trattamento classico, l'interferone, entrambi capaci di risolvere il problema clinico. Certamente l'epatite virale cronica B è difficile da guarire in modo permanente, ma in tutti i pazienti siamo capaci di indurre una totale remissione della replicazione virale che si traduce in un grande beneficio clinico, per esempio il blocco della trasformazione del fegato a cirrosi o nei pazienti che sfortunatamente sono già cirrotici, l'arresto del processo con una riduzione netta del rischio di trasformazione a tumore o di complicanze che poi richiedano l'eventuale trapianto di fegato. Quindi mi raccomando, questa signora si rivolga ai centri specialistici che nel Veneto non mancano, né a Verona né a Treviso, soprattutto a Padova, perché lì troverà una opportunità di raggiungere in una percentuale piccola dei casi la completa guarigione, nella stragrande maggioranza dei casi invece la completa remissione clinica e il controllo del suo stato di salute. Voglio rispondere ad alcuni SMS, ad esempio l'uso di integratori, di proteine aminoacidi può causare problemi al fegato, professor Colombo, ci chiede un ascoltatore? Io credo di no, però occorre una, guardi, francamente occorre un caveat, cioè un campanello d'allarme che sia sentito dai nostri pazienti. Noi usiamo integratori alimentari proteici nelle fasi terminali del fegato, quando dobbiamo supportare un paziente in fase di trapianto di fegato. Quindi un impiego molto limitato, basato su delle evidenze cliniche che riteniamo convincenti, e ci fermiamo lì. Sì. Gli integratori alimentari in genere possono nascondere dei problemi. Non più tardi, 3-4 anni fa, la rivista europea di maggior prestigio, Journal of Hepatology, ha riportato una serie di studi dalla Svizzera ad Israele che segnalavano casi di gravi lesioni epatiche in pazienti che avevano assunto per un certo numero di mesi alcuni integratori alimentari. Quindi occorre sempre interagire con i propri medici, con gli specialisti, prima di intraprendere questi percorsi alimentari. È vero che un bicchiere di vino, mi scrive un altro ascoltatore, equivale ad un'ora di lavoro del fegato per smaltirlo? Professore, questo potrebbe spiegare la raccomandazione di consumare vino nelle dosi assolutamente moderate? Ma dunque, un concetto è molto chiaro. L'etanolo, l'alcol etilico che è contenuto nelle bevande alcoliche, è un estraneo al corpo umano, sì. Non è assolutamente presente, e per, diciamo, manipolarlo e renderlo inoffensivo, il fegato è costretto a spendere molte energie e anche a attivare processi di trasformazione che alcune volte si traducono in una malattia. Quindi, pur non essendo noto qual è il livello minimo di consumo di bevanda alcolica ritenuto sicuro, io vorrei ricordare a tutti noi e a voi donne, che siete molto più vulnerabili di noi maschi rispetto all'etanolo, che c'è questo stupendo studio fatto in Inghilterra su 1 milione di donne, dove si andava a valutare le ragioni per cui nascevano alcune neoplasie frequenti, che si è visto che anche un piccolo consumo di alcol quotidiano nella donna incrementava la probabilità dello sviluppo del cancro del fegato. Quindi il danno epatico è sempre in agguato per un bicchiere di alcol, chiaramente lo possiamo tutti tollerare bene. Il consumo cronico di diversi grammi al giorno di alcol, noi riteniamo tra 20 e 30 grammi al giorno di etanolo, la barriera tra il piuttosto sicuro e il meno sicuro, può causare malattie epatiche. Fegato, istruzioni, attenzioni per mantenerlo sano, esami per valutare il suo stato di salute e terapie per affrontare le malattie che possono interessarlo. 824 0024, questo è il nostro numero a vostra disposizione. I messaggi al 349 238 6666. In linea con noi abbiamo il professor Massimo Colombo, che è direttore della cattedra di gastroenterologia dell'Università di Milano e della divisione di gastroenterologia del Policlinico. Professore, gli esami del sangue che permettono di valutare la salute del nostro fegato sono di grande interesse per i nostri ascoltatori. Abbiamo parlato di bilirubina e di transaminasi. Basta la dieta per far rientrare i valori, mi chiede un ascoltatore, o è necessario affidarsi a delle terapie, ai farmaci? Professore. Ma qui occorre distinguere sulla origine della malattia epatica. Se noi riteniamo che un paziente abbia una malattia puramente metabolica del fegato, quindi abbiamo già escluso che lui abbia l'epatite virale, le malattie autoimmune o d'accumulo di metalli, il problema è complesso. Esiste un gran numero di persone nel mondo che hanno costitutivamente una malattia epatica che può portare a un danno strutturale del fegato che ricorda sia l'epatite virale che la cirrosi virale. Questa malattia si chiama steatoepatite non alcolica per mettere ben in chiaro che queste persone hanno il danno epatico in assenza di consumi di bevande alcoliche. Queste persone sono identificabili attraverso vari meccanismi, innanzitutto l'esame clinico, e spesso sono persone che hanno un diabete, che sono sovrappeso, che soffrono di ipertensione arteriosa o che hanno una malattia del metabolismo dei lipidi, il colesterolo alto. Queste persone tendono ad avere una resistenza intrinseca alla insulina che produce il pancreas e a generare una serie di reazioni dentro al fegato che si traducono in una infiammazione e cicatrizzazione, quindi una malattia subdola. Se poi queste persone hanno, diciamo, dei fattori concorrenti perché bevono, assumono farmaci o hanno altre malattie, come può capitare, che peggiorano la salute del fegato, ecco che allora lì cala un po' di nebbia, diventa difficile per il medico separare le cause. È chiaro che a questo punto la dieta e il dimagramento non bastano più. Sotto sotto resta la brace della malattia steatoepatite non alcolica che noi osserviamo in persone anche magre. Quindi 2-3% degli italiani ha questo rischio di malattia legata al metabolismo, lo può aggravare con dei comportamenti dietetici incongrui, non parliamo poi di quelli che sopra ci bevono, e non parliamo anche, se vuole, dei fumatori, perché oggi è assodato che il fumo di sigaretta incrementa in modo significativo l'infiammazione e la fibrosi del fegato, non solo in corso di epatite virale e di cirrosi virale, ma anche in queste persone che nascono con questo danno costitutivo della sindrome metabolica e del rischio di steatoepatite non alcolica. Professor Colombo, un'indicazione per Lorenzo, perché il suo messaggio ci fa parlare di un luogo comune. Noi, quando una persona ci fa arrabbiare o siamo particolarmente stressati, diciamo mi fa venire il fegato grosso, no? E infatti Lorenzo e molti altri ascoltatori mi scrivono quanto la tranquillità o al contrario lo stress possono incidere sul livello degli esami del sangue. Ad esempio lui cita le transaminasi e mi dice: le mie migliori analisi sono al termine delle vacanze di Natale. Insomma, è possibile che il nostro fegato si ingrossi e qualche valore si alteri perché siamo particolarmente stressati, e ce la possiamo raccontare così? Non certo per le transaminasi, zero probabilità. Invece per la bilirubina, come dicevamo prima, lo stress fisico e psicofisico, incrementando il fabbisogno del fegato, può far aumentare i livelli di bilirubina circolante nei soggetti con sindrome di Gilbert, che nascono con un difettino nel trasporto e nella metabolizzazione della bilirubina all'interno della cellula epatica. Professore, noi abbiamo citato anche, anzi l'ha citato lei, le persone che fanno molto sport. Antonio ci scrive: l'eccesso di sport affatica e lascia strascichi nel fegato? Assolutamente no, anzi guardi, è uno dei due presidi terapeutici per i molti pazienti che hanno una patologia epatica da sindrome metabolica, insomma il grasso nel fegato, la steatosi o la NASH, la steatoepatite non alcolica. L'esercizio fisico strenuo e la dieta. Quello che l'esercizio fisico però determina è una certa confusione diagnostica, perché lo stress sui muscoli determina il rilascio di alcuni enzimi e delle transaminasi, e possono questi individui essere erroneamente classificati come malati di fegato. Quindi un'indicazione, dobbiamo dirlo al nostro medico, vero? Sì, di fare gli esami di fegato dopo una giornata di riposo e non dopo uno strenuo esercizio fisico, altrimenti possiamo trovare le transaminasi elevate e confonderci nel ragionamento clinico. Luca ci chiama da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno, buondì professore. Senta, le chiedevo questo: io sto curandomi per un'artrite reumatoide con due noti farmaci, uno in via, diciamo, puntura e uno in pastiglie, che vanno molto a pesare sul fegato. Volevo sapere quali sono, diciamo, le... cosa posso fare per, diciamo, alleviare questa cosa? Allora, presumo il metotrexate, sì, intossica un pochino il fegato, causa un po' di accumulo di grasso, e la cosa forse più antipatica è che determina negli anni, ma dopo tanti anni, sa, un certo accumulo di tessuto fibroso. Però lei è tranquillo, perché ha due esami che la preservano da sorprese e riorientano il suo specialista all'impiego di altri farmaci. Uno è il FibroScan, è una specie di ecografo che invia un'onda vibratile nel fegato che legge la elasticità del fegato. Tutti i fegati che perdono elasticità accumulano tessuto fibroso e o grasso. E quindi questa è un'informazione clinica che lei rapidamente ottiene, che passa al suo specialista. E l'altro esame è sempre la ecografia dell'addome, del fegato, perché permette di dire se il fegato è ingrandito, se i suoi bordi rimangono lisci o diventano rugosi e se il pattern, cioè questo profilo ecografico che ha l'organo, si modifica e richiede magari un approfondimento. Non di rado alcuni di questi pazienti si sottopongono a biopsie epatiche per chiarire meglio la condizione clinica e riorientare l'uso dei farmaci più appropriati. Professore, il fibroscan e l'ecografia sono esami che vanno suggeriti a una categoria precisa di persone o è necessario, a partire da una certa età, sottoporsi a questi controlli anche in assenza di sintomi, di comportamenti a rischio, oppure seguendo una dieta equilibrata? No, io direi assolutamente no, dottoressa. Ecco, il fibroscan deve proprio essere nelle mani dell'epatologo specialista che lo applicherà in selezionati casi. Per esempio, il nostro ascoltatore, diciamo, interlocutore, appunto, insomma, avrebbe bisogno per chiarire se questo metotrexate sta causando o no problemi. L'ecografia invece è un discorso più ampio. Oggi non c'è medico che non ricorra all'ecografia per chiarire la situazione dell'addome e in questo contesto vorrei ricordare che l'ecografia è lo strumento più importante per la diagnosi precoce del carcinoma epatocellulare che ogni anno colpisce 10.000 italiani. Una volta identificata una malattia cronica di fegato, i soggetti che si sottopongono ad un'ecografia ogni 6 mesi, nel caso dovessero sviluppare tumore, vengono diagnosticati in una fase così precoce da poter essere salvati e ben guariti da una malattia come il carcinoma epatico che, se lasciata andare avanti e tende ad andare avanti in modo subdolo, taglia nettamente le prospettive di sopravvivenza. Patrizia infatti ci scrive: mio padre, mia zia, mia nonna e il fratello di mia nonna sono morti di epatocarcinoma, 4 su 4. Io ogni anno faccio eco, c'è altro che posso fare? Rispondendo a Patrizia, diamo delle indicazioni a chi ha una, me la lasci mettere tra virgolette, storia familiare, professor Colombo. Allora, la familiarità per epatocarcinoma ha una base scientifica dubbia. Perché vede, non sappiamo separare quello che può essere il comportamento alimentare di una famiglia, come in Asia, dove si espongono a veleni alimentari che possono causare tumore del fegato, l'aflatossina, a situazioni più tipiche dell'Italia, dove in una famiglia gira un'infezione cronica come l'epatite virale C o l'epatite virale B, che se non curata in alcuni soggetti può determinare cirrosi e la cirrosi a sua volta il carcinoma. Quindi il concetto di familiarità, non abbiamo dati per dire che sottintenda una chiara predisposizione in quell'ambito familiare a fare cancro. In Italia spesso significa circolazione di un'infezione cronica virale, sa, nei tempi antichi con l'uso di siringhe riciclate, di aghi non ben sterilizzati, che causano epatiti croniche virali e da lì il rischio di tumore. Comunque la cosa migliore è, naturalmente, nel caso della signora, cercare di capire se è portatrice a sua volta di una infezione cronica virale B o C, se ha degli esami di sangue alterati. A quel punto, se è negativa per tutto, la sorveglianza con ecografia non è giustificata. E noi siamo tornati, abbiamo Edoardo che ci aspetta dalla provincia di Latina. Buongiorno Edoardo, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno professore, io chiamavo per porre un quesito. Da circa 15 anni mi sono ritrovato con una gamma GT isolata, alta parlo di 250-300, tutti gli altri parametri sono nella norma, markers epatitici tutti negativi, sono un colesterolemia borderline. Mi hanno provato a far fare terapia con glutatione, filibina, ma non si abbassa. Ho provato l'astinenza assoluta da alcol per diversi mesi, ma non cambia il risultato. Volevo chiederle la motivazione eventuale di questa problematica, quale possa essere. Grazie Edoardo. Grazie. Professor Colombo, una rondine non fa primavera o queste gamma GT a 250-300 possono rappresentare invece un fattore di rischio, un segnale da indagare ulteriormente? Ma noi abbiamo alcune centinaia di soggetti come il nostro Edoardo. Sì. Li abbiamo studiati in modo anche all'inizio un po' aggressivo e per 20-30 anni li abbiamo sottoposti a sorveglianza di varia natura, comprese in alcuni casi anche istologiche. Non siamo mai venuti a capo di nulla, cioè non abbiamo mai trovato una malattia degna di questa definizione. Va però, diciamo, subito specificato un punto. La gamma GT è un test aspecifico. Può segnalare da un lato quello che ha probabilmente questo signore, cioè una sindrome di sfumata insulino resistenza, visto che è un dislipidemico al limite, e quindi un pochettino di accumulo di grasso nel fegato con un po' di segnale di gamma GT nel sangue, anche se non risponde alla dieta, alla stensione alcolica. In altri casi invece la gamma GT segnala un piccolo focolaio di infiammazione nelle più piccole vie biliari interne al fegato. E allora sì, lì è opportuno approfondire con alcuni esami sierologici che escludono la presenza di malattie del sistema biliare, vi sono alcuni autoanticorpi che leggono questo rischio, e poi naturalmente si può arrivare a dei punti di raffinatezza diagnostica quando il medico si convince che può essere qualcosa delle vie biliari interne al fegato, come la colangiorisonanza, che è del tutto innocua, non espone a raggi e non fa assumere contrasti. In linea di principio direi che al 95% questo gentiluomo dovrebbe rilassarsi, perché essendo stato studiato così bene, sì, apparterà a quella categoria folta di pazienti che noi abbiamo seguito per 20-30 anni senza trovare alcun equivalente clinico di rilievo. Professore, andiamo proprio ai nemici del nostro fegato, ne abbiamo in parte parlato, abbiamo parlato dell'epatite B e anche dobbiamo parlare dell'epatite C. Ci sono persone che abbiamo detto possono essere malate senza saperlo. Professore. Beh, in Italia noi stimiamo l'esistenza di 1.200.000 portatori cronici di infezioni tra i nativi. Poi abbiamo un gruppo di immigrati che provengono da aree iperendemiche con un tasso elevato di epatite C, che rappresentano probabilmente ancora un centinaio di migliaia di casi cronici di infezione. La stragrande maggioranza di tutte queste persone non ha sintomi e probabilmente, se potessimo esaminarli con accuratezza, non avrebbero nemmeno associato una malattia importante. Però diciamo il fattore malattia è destinato a presentarsi negli anni, perché l'epatite cronica C è lentamente in alcuni casi e più velocemente in altri inesorabilmente evolutiva. Allora qui conta moltissimo l'età del paziente e le comorbidità. Ci sono persone giovani che non hanno alcuna malattia epatica dimostrabile avendo infezione cronica C, ma che rapidamente sviluppano un danno al fegato perché hanno delle comorbidità, abusano di alcol, sovrappeso corporeo, l'insulino resistenza. Altri che fortunatamente diventano anziani e vecchi con un fegato pochissimo infiammato e non meritevole di cura. Noi cerchiamo in modo abbastanza accurato di isolare quel gruppo di portatori cronici di epatite C che hanno un'elevata probabilità di sviluppare cirrosi e quindi di vedere il proprio futuro minacciato da questa malattia severa. E di solito ragioniamo così: i giovani vorremmo curarli tutti, perché nei 50 anni che li separano dalla morte può avvenire ogni evento relativo all'epatite C, le persone di mezza età le curiamo se hanno già qualche lesione del fegato, che oggi può essere predetta col fibroscan e più anticamente invece veniva certificata dalla biopsia percutanea di fegato, e invece le persone tra i 65 e i 70 anni noi cerchiamo di capire come si comportano i cosiddetti rischi competitivi, cioè ci chiediamo: ma questa persona rischia di perdere o di accorciare la vita per il fegato, o più concretamente ha altri fatti cardiocircolatori, altre neoplasie? E in base a questo noi decidiamo. Oggi abbiamo una cura duale, interferone più ribavirina, che guarisce la metà dei pazienti. Vi sono sottogruppi di pazienti con dei genotipi facili da eradicare che guariscono fino al tasso del 90%, però tra 2 anni noi disporremo di un'arma che, a giudizio degli esperti, modificherà completamente il paradigma di cura, e cioè gli antivirali diretti da somministrare insieme ad interferone e ribavirina, che porteranno i tassi di guarigione globali a 3/4, quindi una cosa enorme. Enorme. E aumenterà significativamente il tasso di guarigione in alcuni sottogruppi di pazienti che oggi non siamo capaci di guarire perché hanno delle cariche virali maggiori, hanno già associato una malattia di fegato o hanno delle comorbidità che impediscono la lunga durata della cura, mentre con questa triplice terapia si potrebbe accorciare a 24 settimane. Però qui, come sempre accade in medicina, si creerà tra 2 anni un enorme problema. Oggi l'epatite C, essendo basata sull'impiego di farmaci che non creano resistenza, interferone ribavirina, viene somministrata da almeno 650 punti terapeutici in Italia, che sono poi gli ospedali. Sì. Un domani questo non dovrà più accadere, perché i nuovi farmaci causano resistenza genetica nei virus. E se vi è una cattiva scelta terapeutica o una imperfetta conduzione della cura e non ci si accorge che il paziente sta sviluppando resistenze genetiche, si rischia di compromettere il futuro di quel paziente, perché la resistenza genetica virale causata da un farmaco di categoria, questi farmaci si chiamano inibitori delle proteasi virali, si ribalta anche su tutte le altre molecole di quella generazione, quindi compromettendo poi magari il futuro di pazienti che meriterebbero di avere la vita salvata da un trapianto e che la resistenza genetica impedisce. Quindi io prevedo che si dovrà ricorrere a un sistema di reti terapeutiche come noi abbiamo già costruito in Lombardia per l'epatite virale B. L'epatite virale B, quando viene trattata con farmaci antivirali diretti, ha inerente un rischio, attualmente piccolo, ma 10 anni fa maggiore, di causare resistenze genetiche nei virus. E allora i medici progressivamente non si sono più fidati a somministrare queste molecole e hanno progressivamente avviato i pazienti in centri super specialistici con dei laboratori come i nostri che misurano la genetica, la risposta del virus alle cure. Oggi noi abbiamo una rete in Lombardia per cui i pazienti con epatite B si fanno tranquillamente curare nei loro ospedali di origine, magari ospedali di dimensioni minori. Con la supervisione di un centro. Sì, ma inviando qui ogni 3 mesi un campione di sangue, noi garantiamo che non si sta verificando la resistenza e che la cura non solo è efficace, ma è anche sicura per la loro salute. E quindi tutto procede in modo molto efficiente. Professore, io la devo salutare, ma soprattutto ringraziare per la sua chiarezza e la sua disponibilità. La saluto, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, io professor saluto Colombo. Lei e i suoi ascoltatori e buona giornata a tutti. Grazie mille. Noi ci sentiamo domani, cari amici, sempre alla stessa ora, dopo il GR delle 11. Buona giornata. Essere e benessere.